La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16.35, primi 49 secondi, qui in diretta da Milano Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Prima dell'argomento del giorno, oggi torniamo a parlare della proposta Ricolfi con un altro interlocutore per sapere cosa ne pensa, consentitemi di semplicemente di esprimere solidarietà, vicinanza, abbracci a tutti i cittadini di Genova, anche ai nostri ascoltatori, ai familiari della vittima, per quello che avviene ogni autunno purtroppo a Genova, molte volte con vittime anche in altre parti d'Italia. Appena inizia a piovere constatiamo che ogni volta si prendono degli impegni che non si mantengono. Io voglio semplicemente dire questo, ricordarvi una cifra, perché i numeri parlano da soli, che vale per Genova come tutte le parti del territorio italiano, sulle quali gli impegni poi assunti dopo le tragedie, dopo i drammi, di cui vediamo le immagini terribili dirette da Genova, vengono assunti dalla politica e non mantenuti, cioè gli impegni per gli interventi, per ristabilire un minimo di controllo di tenuta idrogeologica dei terreni, no? Allora, ogni anno i cittadini italiani pagano, ogni anno, nel 2013 meglio, hanno pagato di tasse ambientali a diverso titolo, sui combustibili, sulla bolletta elettrica, sulla proprietà delle automobili, sui tipi di lavori edilizi fatti e così via. Ci sono alcune decine di tasse a fine ambientale che paghiamo. Ecco, abbiamo pagato un totale di 46,9 miliardi di euro. Una cifra tale che se fosse investita, ma vogliamo dire per metà, per un quarto, ecco, nei lavori necessari per la tenuta idrogeologica del territorio, forse, dico forse, non ne ho la certezza, ma certo, negli anni limiteremmo la ripetizione tragica di quello che avviene. Sapete quanto di quei 46,9 miliardi viene davvero speso dallo Stato centrale e periferico per gli interventi idrogeologici? Meno dell'1%. Cioè 460 milioni in tutta Italia, meno dell'1%, il 99,2% lo Stato delle tasse verdi ambientali se lo prende e lo utilizza per i cavoli suoi, per pagare altro ovviamente, non è che lo bruci, però non per ciò per cui dichiara di raccogliere quelle imposte. Secondo me su questo numero c'è da riflettere più che sulle promesse della politica non mantenute, perché questo numero la dice tutta sul perché ogni anno siamo sempre a vedere queste tragiche immagini con danni per centinaia di milioni alle proprietà, alle case, agli stabilimenti e vittime, gente che muore. Ecco, tutto qua. 46,9 miliardi di tasse ambientali, 400 e rotti milioni spesi davvero per gli interventi idrogeologici. Punto. Mi fermo qua. Ognuno ne tragga le conseguenze che vuole. Ma torniamo in questi giorni in cui i giornali continuano ad essere occupati dalle vicende, dalle code polemiche sul Jobex e sulle minoranze PD, la CGIL, andremo avanti probabilmente per mesi fino ai decreti delegati, a parlare di questa proposta avanzata giorni fa sulla stampa dal professor Luca Ricolfi, che propone un'alternativa. Invece che tanti interventi contrapposti sui diritti, sui licenziamenti, su un aiutino in più per rendere più convenienti i contratti a tempo indeterminato rispetto al giro di vite per quelli a tempo determinato e così via, la riassumo, la proposta del professor Ricolfi è un'altra. Concentriamo tutte le risorse su una misura essenziale per alzare l'occupabilità, cioè la propensione ad accrescere nel breve tempo l'offerta di nuovi posti di lavoro, cioè le assunzioni da parte delle imprese. In che cosa consiste? Invece che come funziona oggi, cioè in busta paga il 50% del costo lordo aziendale al lavoratore, questo 50% lo portiamo all'80%, quindi diamo più soldi in tasca ai dipendenti. E invece di 200 rispetto a quello che va in tasca al lavoratore come costo aziendale per l'impresa, abbassarlo a 125. A questo punto, obiezione, sì, ma ovviamente lo Stato ci rimette sui contributi, sì, però è la risposta, poiché da tutte le indagini fatte sembrerebbe che a quel punto per uno assunto in più con questa offerta di incentivo ve ne sarebbero 2,6 e non solo uno, il gettito entrante allo Stato dall'accrescimento della platea degli occupati sarebbe tale più che da compensare il risparmio, cioè l'incentivo, il che significa meno gettito per lo Stato, dell'offerta così congegnata. E in questo modo, avevamo concluso quel giorno, è possibile immaginare che nell'arco di un anno avere 300.000 occupati in più. Ricordiamoci che nel DEF del governo la previsione di saldo addizionale di occupati aggiuntivi è in tutto di 20.000 unità per tutto l'anno prossimo rispetto a 3 milioni di disoccupati. Ecco, questa è la proposta. Si può discuterne, si può dire sì, no, eccetera, eccetera. Come immaginavo, non ha avuto un gran seguito, tranne che sulla stampa. La politica non la prende sul serio e noi ci eravamo lasciati con l'idea di chiedere un po' in giro a rappresentanti di altre associazioni di impresa se non preferirebbero una cosa di questo genere rispetto ai tanti interventi diversi, ma ciascuno con una goccia d'acqua, che propone il governo. Con noi per parlarne oggi il presidente di Confartigianato, che è anche presidente di Rete Impresa Italia, ma è come associazione che presiede quella di Confartigianato, Giorgio Merletti. Buon pomeriggio e grazie presidente. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, cominciamo di qua. Lei che dice di questa proposta? Ma quando si dice abbassiamo la tassazione sulle imprese e mettiamo più denaro in busta paga ai lavoratori, tagliando il cuneo, si dice una cosa giusta. È vero. Perché se non si crea lavoro o lavori è un po' difficile che poi si crei occupazione, e uno dei problemi che abbiamo oggi in Italia, soprattutto per il mercato interno, è creare lavori. Quindi la cura è quella giusta, anche perché abbiamo visto l'80 euro in busta paga, per non tutti, forse anche discriminando fra le altre cose. Era però un'iniziativa che andava nel investiamo per cercare poi di riavere, risultati pochi. Con il decreto sblocca debiti di Enrico Letta e la legge di stabilità a seguire, bene o male quest'anno qualcosa come l'80% di quello che era stabilito, comunque 30 miliardi circa sono finite alle aziende per il debito pregresso. Ma anche lì probabilmente sono stati usati per tappare i buchi che avevano poi con le banche, con i debiti con le banche da parte delle imprese, ma non abbiamo visto nulla. Poi si parla del TFR in busta paga, bisognerebbe fare altri tipi di considerazioni. Cosa potrebbe generare? Non lo so, evidentemente è qualcosa che deve essere strutturale, cioè deve dare una competitività a titolo definitivo alle imprese e al sistema paese per poter avere dei risultati, se no ho paura che quello che abbiamo fatto, che ha fatto il presidente Renzi e il suo governo, che è un clima nuovo, un linguaggio nuovo, però credo che ci sia poco di liberismo in quel pensiero, un pensiero statalista. E senta, cominciamo da alcuni dei capitoli che ha enucleato. Tra i suoi iscritti, tra il Confartigianato, tra quelli che avevano una pendenza, cioè un credito che lo Stato non onorava perché avevano lavorato magari per lavori edili locali eccetera eccetera e le amministrazioni non pagavano, quando il governo dice ma noi in realtà l'impegno di pagare tutti i debiti commerciali tra la pubblica amministrazione e le imprese è stato onorato, a voi risulta oppure no? No. No, addirittura se lei sa che c'è una forma un po' contorta, tipica. Bisogna iscriversi, paese, eccetera, no? Bisogna andare. Sì, bisogna accreditarsi, andare sulla piattaforma, che certificare. Io devo andare a dire allo Stato che lui mi deve dei soldi. Cioè, è paradosso. Se ho fatto una fattura devo chiedere, se no. Però per l'amor di Dio il mondo è pieno di furbi, quindi vale la pena, non basta la parola, però è la logica, cioè è la sensazione forte che si ha. Il buon Letta l'anno scorso disse a settembre vi dirò quanti erano i debiti, l'avete detto luglio, ma io non credo che sia per cattiva volontà, effettivamente non lo sanno, punto. Non lo sanno, ma allora non però se il governo dice di avere stanziato tutto quello che serve, un po' di ragionevolezza non potrebbe portare a dire beh, ma se è così allora tutti coloro che non hanno avuto ancora il pagamento sono accolti a poter avere la facoltà di fare immediata compensazione fiscale, lo Stato poi si ripiglia i soldi invece che pagare. Perché non fare così? Lei, come al solito un vulcano, apre mille scenari, perché qui c'è già una bestemmia in questa cosa. Sì. La compensazione universale debiti crediti Cioè io sono debitore verso lo Stato, viceversa, deve essere fatto in modo universale, non solo per i cittadini. Bravo, figuri se non sono d'accordo, ma almeno cominciamo con quelli a cui lo Stato non paga. Lo stanno facendo, vivo Dio, ma, cioè, ma è sempre un modo subdolo, cioè corretto per l'amor di Dio, però un po' da presa per il naso per quelli che sono virtuosi. Cioè io che non pago le tasse e ho una cartella esattoriale lo posso fare, Oscar Giannino che paga tutte le sue tasse no. Correttissimo, correttissimo. Viva Dio, insomma, è sempre la solita storia, cioè è come la storia qui, cioè, anche il TFR, queste cose, cioè, vabbè, si va sempre a finanziare le banche in un circolo virtuoso della povertà, esatto. Più tasse, più le persone vanno a chiedere crediti finanziamenti alle banche, più e via, e il circolo vizioso si va, però si consuma sempre un bene. Non c'è dubbio. È il prodotto, e alla fine quando il gatto si corre dietro, si mangia la coda, quando non ce n'è più, non ce n'è più per nessuno. Senta, ma siccome i suoi iscritti in Confartigianato, stiamo parlando di piccole imprese e così via, nel caso in cui scatta l'obbligo di dare facoltà ai vostri dipendenti di mettere il TFR in busta paga, il governo dice le imprese, le piccole imprese non si preoccupino per la loro cassa che è già stremata, perché con le banche noi faremo in modo che le banche anticipino, all'impresa non si tocca nulla, ma alle banche a quel punto, che dovrebbero prendere, anticipare questi soldi, diciamo allo stesso tasso con cui voi siete tenuti per legge a rivalutare anno per anno il TFR, cioè l'1,75% più il 70% di inflazione, vabbè l'inflazione non c'è, ma meno del 2% oggi, ma secondo lei le banche fanno questa anticipazione alle piccole imprese iscritte in Confartigianato a meno del 2% l'anno? Allora, l'altro giorno siamo stati ricevuti per la prima volta in 7 mesi dal Presidente del Consiglio, nella mitica Sala Verde, che a noi non è che piace particolarmente, io poi mi ricordo qualcosa di quella di prima, e sua è stata l'affermazione dove dice che vado a memoria, deve essere, ricordo le parole precise perché era un po' contorta ma era giusta, deve essere un non costo, ecco, deve essere un non costo per le piccole e microimprese. Però di cosa abbiamo trovato? Mentre in prima convocazione, convocati, poi nottetempo deve essere successo qualcosa, nella notte fra lunedì e martedì, c'erano altre sigle, fra i quali l'ABI. Sì. E questi, poi uscendo, chiacchierando, hanno detto ma noi non andremo mai sul lavoratore, quindi noi andiamo sull'impresa. Ma noi che abbiamo già tutto un sacco di problemi sul merito di credito, dove a chiedere credito noi è un disastro, perché no, oggi le banche sono in giro a offrire quelli che già hanno portato a casa i soldi della BCE, a offrire dei tassi vantaggiosissimi, ma chi lo vanno a offrire? Non lo vanno a offrire a Merletti, che è un rating, no? Certo. Di numeri alti, no, devono offrire magari a Oscar Giannino, che è un 1, 2, un 3, buon per lui. Allora Oscar Giannino dice ma a me non me ne servono i soldi, cioè i miei, cosa me ne faccio? Allora se queste cose mi vanno a incidere sul merito di credito, noi diremo di no. Dall'altra parte diranno la banca, noi sui lavoratori non ci vogliamo andare, sia che sia su un'unica soluzione piuttosto che in un'unica volta in busta paga, no? Cosa succede? Secondo me va tutto Ecco, allora io la ringrazio di averlo spiegato, perché questo punto che è così garantito dal governo, in concreto bisognerà vedere come funziona, perché secondo me in teoria col merito di credito che c'è oggi dalle piccole imprese non può funzionare, ma naturalmente aspettiamo di vedere, che poi magari il governo ci sorprende, riesce a imporlo alle banche, però le banche a quel punto dicono noi abbiamo bisogno del nostro margine di intermediazione perché non siamo la San Vincenzo, nota canzone, e voglio vedere come finisce. Eccoci qui tornati in diretta, devo rispondere ad alcuni sms di ascoltatori, no nei 46.8 miliardi che ho citato, se volete approfondire andate sul sito della CGA di Mestre, trovate il dettaglio di tutte le imposte che fanno la cifra che vi ho detto, non sono comprese le tasse d'ingresso nelle città, i bus turistici e così via, no, quelle non sono tasse ambientali, trovate il dettaglio, quindi la cifra è precisa, e purtroppo è anche preciso che solo meno dell'1% va poi in interventi diretti per stabilizzare purtroppo le aree a bassa tenuta idrogeologica come Genova, meno dell'1%. Allora stiamo parlando di cosa il governo propone da una parte per il lavoro, dall'articolo 18 al Jobs Act, a riaiutare un pochino le assunzioni a tempo determinato, dall'altra parte di una proposta invece di concentrare tutte le risorse su un abbattimento molto solido dei contributi, quindi del cuneo fiscale accompagnato da una percentuale più elevata del salario netto in tasca al lavoratore rispetto al lordo, confidando sul fatto che a quel punto il maggior numero di occupati aggiuntivi che altrimenti non ci sarebbero potrebbero sanare il minor gettito che allo Stato costerebbe questo incentivo. Sentiamo rapidamente come la pensano alcuni ascoltatori e poi torniamo con Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, che è qui con noi oggi pomeriggio. Iniziamo con Daniele. Daniele da Brescia, prego Daniele. Buonasera Giannino, la ringrazio per l'opportunità. Sì, figuri. Sono un piccolissimo imprenditore e sto ascoltando Radio 24, vari talk in televisione, eccetera. Nessuno fa la proposta di mettere in tasca al dipendente, io ne ho tre, una piccola azienda, di mettere in tasca quello che è il valore della tredicesima e della quattordicesima. Questo penalizza il fatto che in questi due mesi le aziende abbiano il doppio riesborso di contributi, di stipendi, eccetera. A volte è successo che nella tredicesima sia stata falcidiata da aumenti di tasse, certo. Per cui il dipendente si aspettava magari 1300 euro, se ne è trovato in busta 500. Non sarebbe facile fare come fanno in tutto il resto del mondo? Il dipendente prende 30.000 euro di stipendio all'anno, si divide per 12 e finisce lì. E gliela si spalma. No, ho capito cosa dice. Giriamo subito la sua proposta a Giorgio Merletti e sentiamo ancora Leonardo da Ferrara. Prego Leonardo. Buonasera. Buonasera. Da Bari. Quello che volevo dire è, a proposito di creare posti di lavoro, io credo che avrebbe fatto un discorso di onestà verso gli italiani. E cioè, sì, va bene, tutte le proposte vanno bene, le proposte di Conte, però bisogna essere onesti. Non credo che sia possibile riassorbire la disoccupazione, cioè creare nuovi posti di lavoro, se parallelamente non si riduce il salario reale di quelli che il lavoro ce l'hanno. Cioè, nella storia precedente non esiste una teoria che consente di dire sì, va bene, possiamo creare posti di lavoro senza toccare i salari reali di quelli che il lavoro ce l'hanno. Quello che lei pone è un grande interrogativo, perché la via alla deflazione interna, quando non si può svalutare la moneta, è esattamente quella, in presenza di forte disoccupazione, di una diminuzione del valore della retribuzione di chi lavora, naturalmente concentrata, cominciando soprattutto su chi guadagna di più. Quindi Leonardo pone un problema molto serio, mi scuso con Leonardo perché è Leonardo Ferrara, io ho detto da Ferrara, invece è colpa mia, che chiamava da Bari. Allora, giriamo entrambi gli interrogativi a Giorgio Merletti per sapere come la pensa, sia sulla tredicesima in busta spalmata, sia su questa cosa, non bisogna ritoccare anche le retribuzioni più alte di chi lavora oggi. Lei che dice, Merletti? Sono suggerimenti anche importanti. Ho qualche perplessità, io mi metto nelle condizioni di chi oggi ha alla gente ferma, e in un mercato che gira con occupazione, ma soprattutto lavoro, perché io l'ho detto prima, quello che manca in Italia è il lavoro, certo. Poi mancano anche le professionalità, e con questo contatto a tutele crescenti, certo. Bisogna capire che fine fa l'apprendistato, perché sennò ci infiliamo in un pasticcio più grosso. Pensare di aumentare, sì, perché praticamente si aumentano questi denari spalmati, e sì, in questo momento pensare di aumentare le cose è un po' difficile. È un po' difficile. Va bene, allora grazie a Giorgio Merletti della deflazione interna sulle masse salariali. Bisognerà che ne parliamo in una trasmissione ad hoc, perché quello che ci dice Leonardo è una cosa pesante, ma ha un fondamento purtroppo. Continuate intanto con Radio 24, appuntamento con me a lunedì.